Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di un tema che nella politica forse ha perso un po' di mordente, ma in realtà resta un tema decisivo e lo è almeno da 150 anni, il tema del mezzogiorno del nostro paese, un territorio per il quale sono state sperimentate tante ricette che non hanno portato a dei grandi risultati e quindi forse sarebbe il tempo di utilizzare ricette nuove. E a questo ci invita il libro fresco e controcorrente che adesso vi presento di Carlo Borgomeo, che è un meridionalista che ha avuto responsabilità importanti, per esempio è stato il responsabile del Comitato per l'Imprenditoria Giovanile e oggi è il presidente della Fondazione per il Sud, che è lo strumento attraverso le quali le fondazioni di origine bancaria intervengono assieme al volontariato e al terzo settore per il mezzogiorno. Il suo libro si intitola L'equivoco del Sud, la terza, 192 pagine, 12 euro. Dicevo che è controcorrente perché Borgomeo polemizza con alcuni capisaldi classici della politica meridionale che hanno avuto esiti disastrosi. Egli stesso scrive che serve una forte, esplicita, dichiarata discontinuità rispetto al passato. Bisogna dire che si è sbagliato nelle politiche per il Sud, che abbiamo sbagliato tutti, anche noi meridionali, Borgomeo di Napoli. L'errore principale, secondo l'autore, è stato quello di puntare solo ed esclusivamente, quasi ossessivamente, sulla riduzione del divario tra nord e sud del PIL. Un altro errore indicato da Borgomeo è quello di aver scommesso in questi decenni su politiche dell'offerta, in cui erano i decisori pubblici a stabilire come, cosa e dove produrre, mortificando ogni tentativo di far nascere un'autentica imprenditorialità dal basso. E non c'è solo il PIL per Borgomeo, il divario terribile e che anzi va crescendo fra il nord e il sud è quello in termini di coesione sociale, che andrebbe recuperato prioritariamente. Ma sentiamo l'autore su questi temi. Buongiorno a Carlo Borgomeo. Buongiorno. Carlo Borgomeo, ho ricordato poco fa le sue parole molto severe sul fallimento delle politiche meridionalistiche degli ultimi decenni nel nostro paese. Perché questi errori si sono così consolidati e non c'è stato verso di cambiare le politiche che si dimostravano fallimentari? Io direi per due motivi. Il primo motivo è che i protagonisti di quelle politiche, le ragioni che sostenevano quelle politiche, potevano ben dire che gli effetti si sarebbero visti nel lungo periodo e quindi si è andati avanti per un po' di tempo. Il secondo motivo, che secondo il mio punto di vista è più importante, è che quelle politiche sono state determinate da un meccanismo di consenso, da una strategia politica che per inerzia non si è modificata per troppo tempo. Una strategia politica che ha ridotto la politica nel sud a rivendicazione, a denuncia di situazioni negative, a rivendicazione di risorse aggiuntive e a trasferimento delle risorse aggiuntive. È naturalmente uno schema un po' troppo brutalmente semplificato, ma io penso che questa sia stata la vera causa. E lei a un certo punto poi insiste sul deficit di politica che c'è stato in questi anni, in politica intesa nel senso di dare delle strategie diverse e migliori. Ecco, questo deficit di politica, scrive anche nel suo libro, fa capire, è stato comune a tutto lo spettro politico in questi anni. Secondo me sì, e secondo me ci si è accontentati, ripeto, io faccio avendo per mia cultura una certa diffidenza a fare analisi troppo complesse, troppo di disegni studiati a tavolino, io più semplicemente penso che ci sia stata una grande inerzia, un'inerzia che ha consentito alle classi dirigenti di continuare come al solito. Io faccio sempre un esempio: quando alla fine degli anni 80 la regione Abruzzo aveva palesemente raggiunto dei livelli di reddito e anche di occupazione che oggettivamente la mettevano fuori dalle aree da aiutare, la politica nazionale, invece di dire al Paese i sacrifici che vi abbiamo chiesto per superare il divario nord-sud, incominciano a dare frutti, tanto è vero che una regione non ne ha più bisogno, invece di fare così hanno semplicemente detto che quei miglioramenti non erano definitivi, non erano certi, non erano strutturali e che quindi bisognava continuare ad aiutare l'Abruzzo. Questo non per una stupida polemica, ma per certificare che quel meccanismo politico, quell'offerta politica era invincibile. Le classi dirigenti non sapevano fare bene un altro mestiere. E infatti lei scrive che c'è una autentica diffidenza verso lo sviluppo. Se qualcosa va bene bisogna bloccarla, perché altrimenti finirebbero gli aiuti. Ecco, forse più che bisogna bloccarla, certamente non la si rappresenta. Certamente non diventa la leva per fare proposta politica. Diventa una eccezione in alcuni casi, in altri casi una piccola cosa che non vale neanche la pena di affrontare, perché tutto è sbilanciato sul rappresentare le cose che non vanno. La sua ricetta è abbandonare la cosiddetta politica dell'offerta, ho spiegato prima di che si tratta, e imboccare la via della politica della domanda. Ecco, che cosa significa? Può spiegare ai nostri ascoltatori di che si tratta? Significa che quando, dal mio punto di vista, quando c'è un soggetto, un ente, un governo, uno Stato che decide di aiutare un territorio arretrato, c'è forte il rischio, per l'intervento straordinario si è sicuramente verificato, che chi ha le risorse da destinare allo sviluppo ritiene di avere anche gli obiettivi dello sviluppo, le cose da fare e soprattutto le regole con cui queste cose si fanno. E questo porta, chiunque ha esperienza del Sud, ma anche non solo del Sud, lo può vedere, si fanno dei bandi in cui l'obiettivo che viene lì fissato e le regole del gioco per raggiungerlo sono del tutto estranee alle esigenze di un territorio. E quindi chi poi partecipa a quel bando è costretto a orientare il suo bisogno, la sua domanda, appunto, le sue esigenze rispetto a quello che ha stabilito l'offerta. Io nel libro ho ricordato tanti autori e laici e cattolici, economisti, che negli anni 50 descrivevano in maniera esemplare come si fa la politica di sviluppo. La politica di sviluppo si fa mettendo insieme le spinte e la domanda locale, cioè quello che i territori e i soggetti locali vogliono fare, anche se sono fragili. Non perché questo significa che non è necessario l'aiuto, ma perché si ha la coscienza che se non c'è questo sforzo di responsabilità locale, gli aiuti che vengono sono infruttuosi e assistenziali. Ecco, infatti lei insiste su questo aspetto, sull'aspetto della capacità di recuperare il modo di cercare il bene comune, per esempio ne parla quando parla dell'auditorium di Ravello, e insiste su questo punto, cioè sul fatto che in fondo il meridione si salva più se si recupera coesione sociale che non quote di PIL. Assolutamente, e su questo che poi, come lei ha giustamente detto, insomma, è la tesi centrale che io tento di sostenere nel libro, ci sono da fare due riflessioni. La prima è che questo adesso è un tema che gira molto anche negli economisti, ci sono, farei per dire, dei passi indietro sulla rilevanza del capitale sociale, della coesione sociale rispetto allo sviluppo. Io non mi metto in questo coro, io semplicemente ricordo che questo qualcuno l'ha detto per il Sud 50 anni fa, anzi 60 anni fa, ed è stato sottovalutato. La seconda cosa alla quale tengo molto è che la mia adesione a questa ipotesi non è un'adesione teorica, è un'adesione pratica. Cioè io giro molto il Sud e ci sono troppi territori in cui l'assoluta mancanza di coesione sociale, il disprezzo totale delle regole, relazioni sociali diciamo negative, la distruzione del bene comune, plasticamente fa vedere che lì è inutile dare risorse che peggiorerebbero la situazione. Questo sembra una forzatura, ma è così, potrei fare degli esempi. Se non c'è un minimo di tenuta istituzionale, minimo dico, e un minimo di comunità, le risorse finiscono male e quindi è meglio non darle. A proposito dell'elaborazione politica, lei a un certo punto nelle prime pagine del libro affronta un tema al quale evidentemente da qui si è sensibili, quello della questione settentrionale che è cresciuta in questi ultimi anni. Insomma, il dibattito si è radicalizzato, però certamente sì. Non è migliorato. Non è migliorato, certo. Queste due questioni come si intrecciano secondo lei? Guardi, io userei un termine che si usa quando si gioca a carte. Io penso che per uscirne bisogna sparigliare, e cioè meridionali e settentrionali che abbiano un po' di sale nella zucca dovrebbero assolutamente abbandonare questa categoria di interpretazione. Vede, ci sono degli studiosi che si occupano di mezzogiorno certamente più attrezzati culturalmente di me, che dimostrano in maniera efficacissima che le responsabilità di questa situazione non sono dei meridionali. Io devo dirle che questo tema non mi appassiona neanche un po', proprio non mi interessa, perché questo non sposta di un nulla la questione politica che c'ha l'Italia, che è quella di avere sul Mezzogiorno una posizione diversa. Non ce la facciamo con un solidarismo tradizionale, non regge più, perché il messaggio dopo 60 anni rischia di essere inconcludente. Io penso che i meridionali, mi preoccupo ovviamente di più dei meridionali, devono sparigliare, e cioè devono cambiare obiettivo. L'obiettivo non può più essere quello di pareggiare il reddito del centro-nord. L'obiettivo deve essere quello di diventare in alcune aree, perché tante sono già più avanti, in alcune aree un paese civile. Ci sono aree del Mezzogiorno, se dovessi essere spinto a fare una valutazione di popolazione, io penso almeno 5 o 6 milioni di meridionali che vivono in situazioni incivili. Questo è il dato. E continuare a avere questo mito del PIL da eguagliare porta a sottovalutare situazioni gravissime dal punto di vista dell'eguaglianza, ma gravissime dal punto di vista del mancato sviluppo. Bene, grazie a Carlo Borgomeo, autore dell'Equivoco del Sud. Buona domenica. Grazie a lei. Uno degli argomenti preferiti dal meridionalismo rivendicazionista, di cui pure parla Borgomeo, è il cosiddetto revisionismo sul regime borbonico, che per molti meridionali avrebbe rappresentato una specie di paradiso in terra che sarebbe stato poi devastato dall'unificazione e dall'annessione, come la chiamano, al Regno di Savoia. Su questa questione torna una storica di Napoli, grande esperta del Risorgimento, essendo lei stessa presidente della Società Napoletana di Storia Patria, Renata De Lorenzo, che ha scritto il libro Borbonia Felix, il regno delle due Sicilie alla vigilia del crollo, è pubblicato da Salerno, 230 pagine, 13 euro. La storica denuncia subito il clima nel quale matura questo revisionismo, un clima dettato dalla logica dei primati, scrive, persi sempre per colpa degli altri, della responsabilità unilaterale, del complotto massonico protestante contro la Chiesa, dei Savoie conquistatori col massacro del Sud, dell'enfasi non contestualizzata su fatti circoscritti, episodi cruenti visti senza spessore comparativo, del processo a ogni costo a momenti densi della storia non solo italiana ma europea, quale fu il Risorgimento, e conduce qui un'analisi serena sul periodo immediatamente precedente l'unificazione e gli ultimi anni quindi del regime borbonico, esaminando anche molti dei miti o delle mitologie che hanno arricchito l'immagine di quegli anni. Per esempio, scrive la De Lorenzo, in quegli anni il campo economico, il regno risulta molto restio all'innovazione e sospettosa verso forme di sviluppo tipiche dei paesi europei più industrializzate, con loro corredo di inedite problematiche sociali ed economiche che si preferirebbe risparmiare al regno. La storica parla quindi di una prospettiva continuistica, ideologicamente reazionaria, anche se non mancavano alcuni fenomeni di intervento che cercano di stimolare il progresso, che però rimangono molto limitati anche per la mancanza di risorse finanziarie. Per esempio, si ricorda che le ferrovie furono sì per la prima volta introdotte nel Regno di Napoli, ma nel 1861 nel Regno delle Due Sicilie c'erano soltanto 99 km di strada ferrata contro i 1372 del nord, i 257 della Toscana e i 100 dello Stato Pontificio. Interessante anche la parte finale del libro, con la descrizione del passaggio da un regime all'altro e con il riposizionamento di molti napoletani che naturalmente abbracciarono poi il nuovo regno e si diedero da fare per dare un contributo all'instaurazione del nuovo regime. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso di narrativa e vi comincio a parlare di un libro insolito di uno scrittore, fotografo e storico dell'arte di origine nigeriana ma ormai newyorkese di adozione, che si chiama Teju Cole. Il libro si intitola Città Aperta, è pubblicato da Einaudi, 278 pagine, 17,50 euro, ed è tradotto da Gioia Guerzoni. La città aperta è New York. L'autore si dedica con metodo a una serie di passeggiate serali che diventano occasione per delle riflessioni, divagazioni sulla città, sulla vita e sulla convivenza. Passeggiate che gli consentono di trovare spunti di eternità anche nella vita quotidiana, nella vita di ogni giorno. Per esempio, quando al Central Park, in una bella giornata di sole, l'autore ascolta dei suonatori di Eru ed esclama: la canzone, la giornata tersa, gli olmi, avrebbe potuto essere un giorno qualsiasi degli ultimi 1500 anni. Naturalmente ci sono momenti meno sereni, come quando per esempio viene aggredito gratuitamente per strada. Nel libro si parla anche di identità per l'autore di colore, che rifiuta non la storia dei suoi antenati ma l'esasperazione dell'appartenenza, per esempio quella dimostrata dal tassista di colore, appunto, che si offende per la mancata solidarietà del casuale viaggiatore, che è appunto lo stesso scrittore. Si parla anche di musica, che non è soltanto una colonna sonora della propria vita ma un'ulteriore fonte di riflessione e consolazione. Per esempio, il passaggio e l'allontanarsi di una banda gli fanno pensare alla vita come un gioco di riflessi, nel quale vivere sia l'originale che il riflesso, mentre da morti rimarrà soltanto il riflesso. Vi propongo dal libro qualche riga iniziale sulla lettura, e in particolare su una formula di lettura, la lettura a voce alta, che l'autore fa con il sottofondo di trasmissioni radiofoniche provenienti da lontane stazioni europee. Quella fuga sonora mi faceva ripensare a Sant'Agostino e alla sua incredulità di fronte a Sant'Ambrogio, che si diceva riuscisse a leggere senza pronunciare le parole. In effetti è incredibile. Mi sorprendeva allora e mi sorprende ancora oggi poter comprendere un testo leggendolo mentalmente. Per Agostino, solo ripetendo le frasi ad alta voce se ne poteva cogliere davvero il ritmo e la vitalità. Ma da allora molto è cambiato nella nostra idea della lettura. Da troppo tempo ci viene ripetuto che l'immagine di una persona che parla da sola è associata a eccentricità e pazzia, e non siamo più abituati a sentire la nostra voce, se non durante una conversazione o quando ci possiamo confondere tra la folla. Ma ogni libro rimanda a una conversazione, a due persone che parlano, e in quel tipo di scambio è normale sentire dei suoni, o perlomeno dovrebbe esserlo. Così leggevo ad alta voce, con me stesso come pubblico, pronunciando parole altrui. Un altro libro newyorkese è quello di un autore che abbiamo già incontrato in questa trasmissione, Michael Daly. Il libro si intitola Trascurabili contrattempi di un giovane scrittore in cerca di gloria, pubblicato da Nutrimenti, 294 pagine, 18 euro, tradotto da Mirko Zilaide e Gyurg Kai. Anche nel titolo questo romanzo riecheggia il libro precedente dell'autore, che si intitolava Guida per gentiluomini all'arte di vivere con eleganza. Il protagonista è anche qui un personaggio mite, apparentemente insicuro, un giovane rimasto molto ricco dopo aver perso i genitori improvvisamente, che deve dare un indirizzo alla propria vita. La vita sentimentale è paralizzata da un amore quasi impossibile. La passione letteraria che il protagonista Henry nutre non sembra aprirgli delle prospettive autentiche, finché anche qui un incredibile guaio provocato dal protagonista gli cambierà la vita, lasciandolo un po' meno ricco ma probabilmente più maturo e consapevole di se stesso, grazie anche alla lezione raccolta, e cioè semplicemente il fatto che non c'è niente che si possa fare per prevenire ciò che accadrà nella vita, che una gita serena al nord per recuperare vecchi oggetti di famiglia può avere un esito del tutto inaspettato, che non c'è nessun modo di prevedere questi eventi. Insomma, un romanzo di iniziazione in una New York mondana ed elegante, rispetto alla quale Harry mantiene un giusto atteggiamento di cautela e di distacco. Una riscoperta americana è John Williams, uno scrittore texano di origini particolarmente modeste, che poi diventò insegnante di letteratura inglese, vissuto tra il 1922 e il 1994, autore di qualche titolo, di cui adesso viene riproposto il secondo, Butcher's Crossing, pubblicato da Fazzi, 360 pagine, 17,50 euro, e tradotto da Stefano Tumiolini. È un libro del 1960 dal quale si attende una trasposizione cinematografica di Sam Mendes nei prossimi mesi. Butcher's Crossing è un agglomerato di case, uno sperduto gruppetto di abitazioni nel Kansas, nel quale è ambientato nel 1873 l'avventura di un tipico bostoniano che lascia Harvard per affrontare il rapporto con la natura selvaggia. La sua sarà naturalmente una disillusione simboleggiata nella caccia alla quale si dedica, la caccia ai bisonti, che rappresenta lo scontro dell'uomo con la natura grandiosa, che qui ci viene descritta in forma quasi idilliaca mentre si mette in moto la spedizione, la carovana, che avrà poi esiti drammatici. La grande pianura ondeggiava sotto di loro mentre avanzavano dritti verso ovest. La rigogliosa erba dei bisonti, che continuava a ingrassare le bestie nonostante la fatica del viaggio, durante il giorno cambiava colore. All'alba, sotto i raggi rosa del primo sole, era quasi grigia. Più tardi, con la luce gialla di metà mattina, diventava verde brillante. A mezzogiorno prendeva una sfumatura azzurrognola. Nel pomeriggio, con l'intensità del sole, i fili visti in lontananza perdevano la loro individualità e nel verde spiccava una colata netta di giallo. E appena soffiava una leggera brezza, un colore vivo sembrava correre nell'erba, apparendo e scomparendo da un momento all'altro. La sera, dopo il calar del sole, l'erba si tingeva di porpora, come se assorbisse tutta la luce dal cielo senza più volergliela restituire. E a questo punto... Il confettino. Restiamo in ambito americano con un'autrice di Brooklyn, Laurence Oliver. Il suo libro si intitola Il viaggio di Lilli e Po ed è tradotto per Il battello a vapore da Francesca Flori, illustrato da Linda Cavallini, 302 pagine, 16 euro. Qui abbiamo il romanzo di un fantasma che cambierà la vita e farà scoprire davvero un altro mondo a una ragazzina che ha per unici amici all'inizio del libro soltanto un gatto e le ombre della soffitta in cui vive. Prima di salutarci, vi ricordo che col nuovo palinsesto di questa radio... questa trasmissione si sposta di orario, andrà in onda sempre la domenica, ma non più alle 13.30, bensì alle 22.30, con la replica poi la domenica successiva intorno alle 6.15. Quindi ricordate, ci sentiremo domenica prossima alle 22.30. Con questo ringrazio Luca Cremonese in redazione e Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima alle 22.30.